poi non parlava, stava zitto. È quello che fa, che c'è Alghero, l'ho mai visto che si investe da alto. Sì, quello è Tombo lo stesso, ma quello decide, quello è il mimo, sta dicendo. Sì. Allora, quello lì fa due esibizioni. Tu l'hai visto quando si mette nel busto? No. Allora, ne fa uno normale, che fa la statua normale, quello che si veste tutto la faccia di bianco, quello lì sta dicendo. Sì, quello lì, che tira i bigliettini. Se ne scano già. Lo so. Come mai? Per parlare ascolta, che se lo metto troppo alto, all'inizio innesca, vedi, adesso non c'è più l'innesco. Così non innesca, vero? Hai già messo quando moduli? Oh, già, stavo dicendo. Sì, dimmi, dimmi. L'ultima volta che l'ho visto ad Alghero, a quel tipo, si è fatto una specie di, sai presente tu, i monumenti dove si vede il busto, si è fatto una specie di impalcatura e si vede solo la testa sua. Guarda che la gente, cacchio, sembrava una statua proprio allucinante, e ogni tanto si girava, la gente che non se ne era quel tipo che indicava, era una pisciata da ridere, e ne ho trovato uno, sono andato a Genova, all'acquario, da poco, a dice, ce n'era uno uguale a lui, e l'ho visto come si stava truccando, io quello l'ho visto sempre truccato. Questo qua rimaneva a ore, vabbè non a ore, intende, però dico, stava tutta la giornata e poi la sera se ne andava e si doveva tutto pulire, aveva pulendosi con questo affare bianco, ogni travaglio. E questo lo stesso sulla terra di lì chiedeva il soldi, ma era micidiale. Quel tipo lì che stai dicendo tu, poi te lo guardi fisso, c'è la gente che ti bambini e ti fa l'occhiolino. Sì, sì, te lo stavo dicendo io, fa l'occhiolino, è vero. È una scena. Comunque che più ciò sa fare bene, no boh. Sì, per fare bene. No, che mi sono ricordato una cosa, se no poi me ne ricordo. Ma cosa mi bene? Ti sei abbassato da me? Vabbè, guarda che mi sono già. Oggi già, Gianni Lopperuno, hai detto che prendi 9 pastiglie al giorno. Hai detto che sì, le prendevi per il diabete. Una per la pressione e una hai detto che la prendevi per la circolazione, ma non hai detto l'allora, perché sono 8. Allora ha detto cos'è il Viagra. Ah no. No? No, perché ne prendo due. Guarda, fai. La mattina prendo. Nuovo Fonorm, metto un Fonorm. Diatec e un altro, sono quattro. Poi a pranzo ne prendo 5, 6, 7, c'è ragione tu, 8 sono 1. No, era solo una battuta, perché tu dicendo che eri arrivata a 9, ma siccome non ho avuto il tempo di dirlo. E allora. Quello è attento lì già. Vabbè, comunque è meglio che sia rotto che non fermato. Già sono un beotto. Gianni. Eia. Dili che il Viagra non lo prende intera, ne prendi uno la mattina, dopo i pasti uno la notte per coricarsi. No, non ne prendo per niente il Viagra, a chi non ha più bisogno. E chi non ci crede, crede. Provare per credere. Ah, vai, lo sono le figli, guarda. Natalino lo prende. Perché c'era piccolino. E Natalino si rompe. Oh Gianni. Gianni. Non voglio essere scurrito. Ma se non dice che sono troppo maleducato. Beh. Oh Gianni. Lo scartano, Natalino. Bravo. Gianni, sì. Io mi state sentendo? Se si incontra si divorano i denti, parlate uno alla volta, grazie. Oh già, dimmi. L'altro giorno era con in tasca, stava piovendo, mi si è sciolta il muscia che mi ha d'anca. Vecchia, la sapevo già. Oh Gianni, dimmi Roberto. Ti stavo dicendo, io conosco una persona che tra l'altro è anche un medico, non anziano, giovane, lei è un mandrillo di prima categoria, tipo su garanti, sposato, con figli, ha tre figli. Questo ha voluto fare una prova come medico, ma è una cosa allucinante, perché lui tra l'altro è anche un cardiologo, una persona che si occupa anche di cuore, e ha fatto delle prove, diciamo, sperimentali su di lui. E dice una cosa da paura, dice questa cosa, la pressione arteriosa non so di quanto te lamenta, i battiti cardiaci non so di cosa te ne... dice una cosa molto pericolosa, bisogna stare molto attenti. Infatti, io già non ho invito di cicosi. No, chiaro, perché c'è bisogno, però c'è gente che non ne ha bisogno, la prende lo stesso per magari per prolungare il rapporto e roba del genere, ma io non... non sono contrario a queste cose artificiali, a parte che io soffro di ipertensione, quindi se la dovessi prendere mi viene un infarto subito. Ma mi ha detto che la cosa strana che è rimasto tutto il giorno con questa fase duro, dice la cosa, dice anche fastidiosa, dice aveva paura perché dice questo male va bene per una persona che ha problemi, ma uno che non ha dei problemi, dice gli ha creato il problema esattamente al contrario, gli ha amplificato tutto di sé al 100%. E io sono di gente che ne ha preso due o tre e che poi non ha funzionato di più. Si è posto lineare all'apparecchio contundente. No, sono cose esagerate secondo me, a parte che sono contro la natura e queste cose qua bisogna stare molto attenti, specialmente chi soffre di cuore, chi ha ipertensioni, eccetera, eccetera, non ne deve prendere. Ma io non lo so, io non ne ho mai avuto bisogno, mi auguro di non averne mai bisogno. E poi se dovesse succedere non mi ha fatto nulla, è naturale, uno che a 80 anni va già magari un decadimento. Però tutti prima di dire, biglia dello zabaglione. Sì, a 80 anni, vedete anche da giovane per problemi di prostata, roba del genere, può succedere. Cioè... io conosco dei vecchietti, non detto da lui, detto da gente che lo conosce personalmente, sa con chi è andato, gente di 75-78 anni, che hanno fatto delle cose che molti giovani se le sognano. Io questo vecchietto parlando mi ha detto che si è messo il barattolo del ciglio, perché dice che ciò che la natura crea ci lo conserva. Ah, lui sì. Comunque c'è un bel argomento, c'è che qualcuno si piglia a bafforcaccioni, dai, avanti per qua. Già ti è cruzato per qua. No, ma per qua, queste cose qua si sa, sono cose, diciamo, di quest'epoca qua, prima non se ne poteva parlare, quindi... non penso che sia una cosa, qualcosa c'è, c'è gente che ne prende, gente che non ne prende, stiamo discutendo su questo. Addirittura hanno intervistato degli attori porno, dice che ne prendono due prima di fare il film. Luca, parla invece del libro nero tu, delle parole strane. Dimmi. Del libro nero, delle parole, delle gaffe, diciamo. Allora, dimmi, conosci, no, sto seguendo, ma niente di errori per il momento, niente. No, già ne sai, qualcuno già ne ha sentito, la serie ne butti da me, vabbè, io non me ne sono accorto, ho detto, ho ascoltato questo LPD. No, ho capito, vabbè, no, ti sto seguendo, No, non ci stai seguendo. No, ti sto seguendo quello che vuoi dire. Al posto di LPD ha detto LPD. Capita, sbaglia anche quello che ne sa, forse sbaglia più di quello che non ne sa, ma comunque non me ne frega niente, ma quando sbaglio, io non ci dire ispirato, traspirato. E Gianni cosa ha detto la Sari? E Gianni subito lui, la mata di rivali, a cose, a polpo si è buttato, mala di Zionica! In realtà cos'è che ha detto Gianni invece? Ha macchiato! No, un'altra cosa l'ha detto. Gianni, cosa avevi detto tu? Non me lo ricordo, sto pensando, aspetta. Abbattimento! No, quello. Quello dice Natalino. Non mi viene tu. mi viene. Che però avevi cercato tu sul vocabolario Pierpa. Ah, quella parola, aspetta, cos'è? Luca aveva detto che c'era scritto Chanel. Io avevo detto che voleva dire in francese canale. E invece è entrato Giulio e ha detto no, si dice channel, che è in inglese. Ha detto vabbè, non esisto. Io mi ricordo che io so che Chanel in francese vuol dire canale. Poi vuol dire c'è anche il profumo Chanel. Questo discorso che stai facendo tu era un termine qua di baracchino. Ma non so se avevi visto quella pubblicità che fanno vedere quella ragazza del profumo, e beh, infatti c'è Chanel. No, ma Gianni aveva detto una parola, cioè inerente ai termini del baracchino, adesso non mi ricordo che cosa, ma mi ha fatto ridere perché per farlo gliela riportata un paio di volte. Era quella lì la parola. Io ho detto Chanel, e Gianni mi ha detto che non si dice Chanel, ma si dice Chanel, così, non mi ricordo com'era la cosa, non mi ricordo, ma comunque si è capito, dai, io volevo fare un canale, cioè ho detto così, Chanel, non ti cavo così, ma si è capito, poi se si fa... Cazzo, occasione, quando sbagli qua bisogna essere proprio perfetti, se no qua ti mitragliano l'occhio, ma come parli? Ma si fa per scherzare, perché per ridere cosa? Non si fa né per fare i saputelli, né per niente, tutti possono sbagliare, non è che si fa per ridere, poi se si offende la gente, pazienza, non si scherza più. Ci manca una puttana sera a me, no, per farti capire, capiscono magari che dico una cosa che non c'entra niente, ok, ma si è capito il mio, non è che, cioè volevo dire il canale, Chanel, come ti si dici, e tu subito, pum, mi hai, come si dice, mi hai bloccato, ecco, cioè non mi hai fatto l'errore. Però si è capito cosa volevo dire. Il brutto è quando dici una cosa che non ha senso. Quello è ancora più brutto. Luca, dimmi. Posso? Posso? No, lui, non è che ti ha bloccato io, mi ha interpellato tutto il mezzo. Come si dice già? Chanel, così, ti ho detto Chanel, in francese. Ma perché forse mi sono confuso anche col profumo? Non lo so, l'ho detta così, l'ho buttata così. Aspetta, vai per fa. La domenica ci avevo guardato con la francesina. Boh, non mi ricordo, vabbè, sto parlando la francese, beh. Era già scappata, l'ho guardato. Avanza! Pazienza, ma siccome il segnale oscillava da 5 spariva e saliva a 9. Allora, si forse pensa che c'è la scuola francesina che è la Francia. E si è scappato. Dimmi che li due avanti, non vi credo blu blu. Pazienza, vuol dire, se parlo il francese bene, certo mi può fregare, ma... mi sono... per parlare. Allora, tu mi fate me l'ha detto, non è un'idea, tu non fate me l'ha detto. Cioè, andiamo a partire di Platamona, no? Attaccava un po' senti, ma lui ha pigliato, non è un'idea, un bel ha preso in giro, un bel. No, continentale. Luca, dite tu che vai la benzina spagnola, Elena, non si capa sempre a te. Giulia ha detto che non era una femmina. Chi l'ha detto? Giulio chi? Giulio, se ne conosci tu. Ah, Giulio di qua, della frequenza, sta qua. Era una femmina, come? E tu a chi vi sarai messo a bene? Ma l'ho sentita però. Parlavo quasi ogni giorno, Luca, sempre mi chiamava. Finalmente la dietro telefonino, Luca. Aveva già un numero, lui no, era una squilla, non andava. Comunque, come si scrive in inglese, in francese, Chanel? Io francese non lo so. E quello che avete detto voi è Chanel, in inglese vuol dire canale, però ci sono due N, è scritto Channel, dice Chanel. Però in francese non si scrive così, si scrive Canel. Come è scritto? Chi è che sta in francese? Boh, non lo so. Non me lo ricordo. Io non favo i dubbi, se non mi corrigite da voi, basta. La francese parla serba. Da basta, ha tirato per quello francese e inglese. Trovate il caffè? Sì. Perché io ho visto questo segnale che oscillava, ma allora, io prima, se capita, perché molte volte di trovo di camorra, quando sento propagazione qua, mi faccio prima una spazzolata. Se vedo che c'è anche negli altri canali, allora sì, cioè, altrimenti infatti il giorno c'è una propagazione, per fa, basta, ma c'è una propagazione. E poi mi hai buttato come stessi. Carpa, abbassa il microfono se sta parlando. Che c'è sotto avanti? Io parlo francese, mi occupo tu! Buonasera a tutti! Bonsoir, mon ami! Bonsoir, mon ami Pinangelo! Chi sta a te, mi ami già? No! Luca, Roberto, saluto i circolari! A te, Luca! Noi, carissimo Pinangelo, buonasera, no? Se mi hai ascoltato! Sicuramente viene anche non sta piovendo, la qua tutto il giorno che piove! Tutta la di manna, a te la sta lì, poi fa girare per Roberto. Ciao Pina, buonasera. Avanti Roberto. Ehi, ciao Pina, Mercedio, dili tu per farti ascoltare cosa dicevi Pina. Attenzione, l'isola di Pasqua che chiama? Portigali. Portigali. Chi sei Portugal? Te ne ricordi quando hai fatto il collegamento con Bortigali? E ho detto un fatto. A Pietro Bortigali, che fuggi la stazione più bella del mondo, operatore di un torteo, preco. Ed era Portugallo. E dice, mica c'è Bortigali che sta chiamando. Quindi sta di qua quattro anni. Scendevamo e ci siamo più scesi. Sì, con tutto il fuoco effendi. No, se dicevo, non capita, che c'è una bella giornata, ce ne va a trovarla. Mira, che no, perché sai che è una domenica. Se fa bel tempo, ci scendiamo. Oh, Pina, io ero... Allora, siamo scesi, guarda, adesso non mi ricordo, se è venerdì, non mi ricordo. Perché ero anche a pescare con mio fratello, perché gli hanno detto che stavamo a pescare le calamari. E siamo andati lì al mondo della Pianza, non c'è la Pianza. E niente, diciamo che io volevo fare un salto, poi l'ho trovato giù a, perché ho telefonato l'Angelino per dirmi un po' un punto dove andare a pescare i calamari. E trovato no, è prima Giovanni, abbiamo fatto uno scherzo che si è un po' cagato, mi ha fatto detto che c'erano le malattie in macchina, perché non ero sicuro che era lui, E tu ci mi pare Giovanni, ma facciamo l'antenna, che siamo l'antenna di radio, di autoradio. Poi ho visto, no? Mi sono girato che stavamo uscendo dal porto e ho visto una ragazza che stava modulando, ho detto buttami indietro e c'è una baracchina in macchina, si è affiancato e fa faccia il baracchino, c'è una finestra dello stato, no? Fa faccia il finestrino, faccia il finestrino, ma c'è il baracchino per caso, ha detto sì, carabinieri. Mi fa vedere per cortesia il bollettino, i documenti là, e fa Giovanni, sì, era un po' cagato, e fa sì, mi fa vedere il tesserino, e fa, e tu non ti preoccupare, scendi dalla macchina, da me non mi conosceva, e poi gli ho detto che ero io, ma da chi c'è quello di Sassari, io sono io, allora fa un culo. Dietro al carcere lui va dritto. Lo so. Poi vabbè, Pina, siamo scesi alla verità a provare a fare un paio di lanci, ma non faccio lì. Non faccio, facciamo questa marchetta, non è tornando. Quando buttavi, lanciavi, no, poi facevi scendere la tottanara, andava a recuperarsi in Cagliaffa, prendevi delle alghe che c'erano sotto, non venuta in chi. Poi c'era altra gente, gente grande che stava tottanando lì, ma non venne, non c'è nessun caravano. E poi niente, mi fa mio fratello, ci spostiamo dalla parte di Fertilia, ma è lì qualcosa c'è. E poi siamo trattenuti lì. Poi è arrivato Angelino, la ragazza, ci siamo fermati a parlare, poi ce ne siamo rientrati a casa. Erano le 9 passate. Però di piombo arriva a 150 grammi, 3 anni, 150 grammi a 2 anni, e basta la toccata, la madonna, la curarara, no, poi non si ha che prendi la fuori e lì è trascorsa, però ci vuole sempre la barca o... Se la butta pure a messa della finanza. Poi dire si può pescare mi Luca, c'è scritto divieto di pesca, non so se l'hai letto, dove c'è il rifornitore di qua. Un cabino. Ma cosa? A Natalino abbiamo lasciato un bianco, anche Natalino. Sì, va bene, vi ascolto io, vai, che sto facendo cosa qua. Lo sai già, ma guarda, ti posso dire che ce l'ha con qui alla fiera, ci stava, guarda, non c'è detto niente. Cioè io una volta sono andato lì, sto qua d'entusiasta con la canna da solo, adesso mi faccio qualche lancio. E c'era scritto in grande divieto di pesca, proprio a fianco al rifornitore lì, dove c'era il fornitore delle barche, ce l'è presente. E lì a posto c'è la finanza, c'è, ci sono le barche dei carabinieri, c'era un cartello grande grande, c'era scritto divieto di pesca. No, no, non ne ho visto, non ci avevo detto niente, sai, niente che la picchia neanche io, non ho l'idea. No, Gianni. Anche al modo oasi ci va la gente pure, mettono le buste, cosa c'è? Comunque io non l'ho letto, adesso che abbia cambiato non lo so. Non lo so, già, avanti, vabbè. No, stavo dicendo, anche nel porto del portatore se non si può pescare, ma pescano tutti. Fissa quando non trovi il tipo che ci manda via tutti a mettere contravvenzioni. Perché tu in zona portuale non si può pescare. Dunque, vabbè, a quanto ho sentito io dice che li devono chiudere, Già sono di Sanremo, no? Devi sarrare. No, l'hanno già messa, ma lui sta dicendo, non vede già di fondare, sta dicendo. No, non attacca la Grimaldi, di fronte, non c'è il muraglione. Ah sì, vabbè, tu stai dicendo amore industriale. Ma di lì non si può pescare lo stesso, teoricamente di lì se si mettono a controllare devono andare a mandare via tutti, non si può pescare sui ponti. Eppure ti fanno mettere, non dicono niente. Cioè ne hanno messo quel bali, 18 euro, 12 euro mi sembra. Non lo so, io so che teoricamente non si può pescare, ci sono le ordinanze e tutto quanto, poi se le applicano le ordinanze è un conto, però normalmente non stanno lasciando ancora, però io al volo agile, lo sai che non niente conosco che hanno messo la multa? Quel tipo è entrato in acqua lì, lo sai, dove peschiamo i calamari, roba, dice cioè, si è fatto 50 tottanale. Sì, lì è tutto pieno, io ci me lo immagino. Io ci sono entrato un sacco di anni fa, addirittura lo sai dove stai dicendo tu, dove attacca la Grimaldi, io ero entrato a fare pesca su barca, quanti anni fa. Minimo una quindicina d'anni fa. Ehi, sta giù su me che ci hanno Gianni, un bel. Ho preso tre Yuzuri, poi quella dei 13 ne ho preso un bel stesso, un bel. E quanto c'è di fondale, Roberto? 16 metri ci sono sotto lì. Sotto il muro? Tu quanto scendi? No, ma non ci scende, ma mica ci pescavo, andavo a vedere così. Una volta solo, ma mio cognato c'è entrato, ma è troppo brutto già, ti fa paura, tutto ferro, viene a pogare roba, è pericolosissimo. Allora, io ho visto uno che è entrato da Molo Cattaneo, è uscito dopo, c'era una mezz'oretta, e ci aveva un grongo che ce l'aveva sulle spalle e li toccava in terra a portare grande. 4-5 orate, un bel sarado e una sippi. In mezz'ora ha fatto tutto questo pesce. E ha detto che oggi non c'ho tempo, non devo andare, che se no a volte prendo un pesce che non ce la faccio manco a camminare e se ne esce con la muffa, si prende il piede in mano, il pesce di spalla e si fa tutto il mondo ti guardandolo. Ma deve stare un bel attento, l'ho visto anche io uno, mai la stessa persona pescando lì dietro la monocata, ma il peggio di tutti, io ho visto gente pescando alla riga foranea, non so se sai dov'è, ma della parte della riga foranea pescando, facendo pescare sul barco, mi dici che è pericoloso. Sì, vanno da tutte le parti, c'è gente che il produttore è molto bravo a scendere, sanno pescare bene. C'è un ragazzo di una mia collega che prende pesce anche da 20-25 kg, qualche volta ha preso un barracuda, gli si è tirato addosso, dice che l'ha sparato, non ha mirato la testa, però si è spostato di colpo e l'ha preso al centro. poi gli si è avventato addosso, con la fucina attaccata, gli si è avventato addosso, gli ha preso la muta e l'ha stracciata, la muta a 5 mm. Ha detto, ma non ci avevo grossa la muta, se no mi avrebbe messo sulla carta. No, io sono mio cognato già bravo, vabbè, lui fa le gare. Può essere che lo conosci più perché era della zona tua già, parente, lo stesso nome di quello che dici tu dove è morto, vicino, non facciamo nome, dove c'è Giulio, l'hai visto? Dove c'è Giulio? Ma non sta lì? Giulio è il falegname. Sì. Il nipote di quello è mio cognato, fa il campionato, fa le gare, è veramente bravo. Vabbè, super allenato, lui è sempre allenamento, effendi. Cioè di quelli che non mangia un coso, ma per la linea, nel senso per curarsi il fisico. È una persona di quelle, a livello fisico e atletico, c'ha una preparazione allucinante. E beh, deve essere così per scendere. Io facevo pesca d'aspetto, tentavo i saraghi nelle spaccature, poi come lo vedevo scendevo, sparavo e risalivo. Non è che scendevo, a volte sì, controllavo qualche tana, qualche cosa. Sapevo un'altra di simbia che praticamente era scavata tra la sabbia e la roccia. Scendeva così dentro la roccia. Ogni volta che andavo c'erano sempre simbia. No, vabbè, mio cognato è uno di quelli che pesca a fondale, lui dai 25 ai 30 metri pesca, uno diciamo c'ha un bel di apnea, non è un giocattolo di senso, è uno diciamo un semiprofessionista, nel senso che lo fa quasi come professore, anche se non diciamo c'ha un lavoro suo, però lui è di quelli che va tutto l'anno, tutte le gare possibili e immaginabili della Sardegna se ne ha fatte in continente, anche fuori, è uno di quelli che va a fare, proprio lo fa con passione. Ma non ho capito chi è, non ho capito. Guarda che lo conosco come, se abita io, abitavo a Sacro Cuore, figurati se non lo... Sicuramente lo conosco. È nipote di quello che c'ha l'officina vicino a Giulio di Motto. Ah, basta, ho capito. Con la Emilia. E a lui. Ma è quello voi baffi o quello robusto? Il fratello di Tetta, quello è lo zio, il fratello di Tetta, quello lì. Ho capito. Acciugavito. Sì, ho capito, li conosco tutti e due. Sono tutti e due insieme ancora, uno era più robusto e l'altro più magro, ancora tutti e due insieme sono vicini. No, quello l'ex socio, diciamo, la società è il padre di mio cognato. Quello lì sta lavorando insieme alla moglie, c'hanno una cartoleria, diciamo. Gestiscono una cartoleria zona di cosa, non diciamo in particolare, non si ricorda. E lui è vigile del fuoco, adesso sta facendo vigile del fuoco. Lui è questa persona che dico io. Ce ne sono bravi così. Sto dicendo che questo marito, questa mia collega viene con certe bacine, con certi pesci, va bene, e via, cerne, di tutto prende. E visti da me non è così, una volta voleva vendere i pulpi, se ne voleva, ne va via una bacina lentina, sai cosa fa? Lui va a largo con la barca, poi da solo mi va, infatti da moglie, adesso sono sposato, è sempre preoccupata perché parte da solo con la macchina, scende la barca, una barchetta, va a largo, un distintino lì, e si mette a pescare. Solo che se succede qualche cosa nessuno lo vede, nessuno sa niente. No, così non va bene assolutamente, no. Io sono sempre contento, io ho perso più di tre amici, molti in pesca subacquea e altri conoscenti, e ti posso dire, io sono prudentissimo, se devo scendere a 8 metri, cioè scendo a 8 metri, nel senso il mio limite è 8 metri, pesco a 6 metri, non sono di quelli che devono per forza scendere a un bel. E io per poco ci rimango, una volta ho sparato un sarago, quando facevo pesca subacquea l'ho preso sotto, non sono uscito tutte le mule là fuori, e se era entrato un bel sarago, se era entrato in tana, io sono andato a seguirlo, mi sono incastrato la testa nella roccia, non riuscivo più a uscire. Dai ragazzi, no, io sono troppo prudente, però è capitato qualche volta che ne arrivi a pallone, che non ce la fai più. Infatti mi fa, quando sono arrivato sotto. Infatti bisogna gestirselo bene il fiato, non arrivare mai a conoscere tutti i limiti, è un bel importante. Io conosco gente sfidiata, amici, se sono muti, cioè rischiando l'accorso in acquata, uno a 25 metri e l'altro in quella cifra lì, in quella in ordine di altezze. Sono morti tutti e due a capocaccia, due e l'altro è morto accorso a Portoferro. Anche Guidosini è morto lì a capocaccia con la cerea staccata anche lui. Questo è il bello, quello che è morto, uno degli ultimi che è morto, c'era il padre sopra e non riusciva a scendere. Il padre, cioè, l'ha visto, lui se non lo voleva salire, allora si è messo, perché stavano pescando insieme, e ha visto il figlio morto sotto, non riusciva ad arrivare perché era a 30 metri, non riusciva a prenderlo. E se ne risaliva, riscendeva giù e non ce l'ha fatta. Questo qui è una cosa brutta. Come la facciamo girare? Avanti, sta lì. Oh, lo prendo io a caio. Ci vuole sempre prudenza quando si va in mare aperto a caio. Io guarda, di solito andavo in barca, ma non saranno 5-6 miglia a fuori. Però ha attrezzato due motori, mostra, baracchino e tante altre cose. Già. Ci si è fermata la barca a mio lato, lo sai, a 1500 metri di profondità. Ci si è fermata la barca. Siamo andati a mettere le moto, lo metteva più in moto fino a oggi brigato in greco. Ma guarda, io mi alzato il mare, però sono io lo rispetto al 100%. Mi guardo, oltretutto una bella pilotina alta e grossa. Due motori, un auxiliario e l'altro il centrale, no? E guarda, l'insegna sempre più del solito, Mutra e Maracchino, sai, allora non c'erano i telefonini quando ci voglio. Sai cos'è? Mi ha risaltato il mare. Io con un motore, guarda, difficilmente riesco, figurati un po'. No, non ne avevamo due. Diciamo una cosa, che questo amico aveva preso la patente nautica da poco e si è comprato una sessa, una pilottina, e via Alghero proprio. E siamo usciti in barca, la prima volta che l'ha fatta uscire, siamo andati a farci un giro, e ha detto non ti allontanare, che ancora non la conosci la barca, te prendi, ora mi ha fatto fare un giro a me pure. Cosa era successo prima? Che c'erano le batterie tutte ossidate, lui non le ha controllate, è per quello che lo metteva in moto. E non c'era manco chiave per smontarla, niente. Ma sai cosa ho fatto? Con tutta la forza che avevo, gli ho detto tu gira la chiave, io muovo, ho mosso il cavo, boom, mi ha buttato subito di moto. Quando vedi le barche in legno, correndo, le tornano, e sai che cosa è successo a me un'altra volta? Di mattina questa ricomincia ho sempre detto io che andiamo a pescare già, c'è una moesca e tutti, bianchi e calamari, gamberetti a me va. Di tutto. Vabbè. Verdi, gamberetti, canelitti, tutto mi va. Apprestati fine lì. Fatto sta che stavamo uscendo e ci facevano di mano, stavamo più rientrando in questo. I gusti stavano più rientrando, ci facevano di mano. E ho detto Andrea, io che torniamo indietro, dai, che vedi che ci deve essere male fuori. No, stanno salutando, i pescatori salutano, qui hanno messo due rettili di notte, adesso sono andati a ritirare e se ne stanno rientrando. E detto come in balestrano, più uscivamo fuori più c'era corrente, beh, ci ha preso una mareggiata, una bufera, c'è presente il vento, più già con queste onde alte, in mare alto, proprio in mare lontano, al largo di Capocaccio. Detta io mettiti sotto costa e ci ripariamo qua, se tutto va male chiamiamo la capitaneria. E no, ma cosa fa? Già si calma, già si calma. Vabbè, già si è calmato il mare, si è fatto tutto nero di colpo. Cazzo, ogni barriata di eva, di acqua, vento, le onde altissime. Lui si è preso conto, se è andato sotto, si stava bevendo il vino, poi l'ho messo in moto di imbarcazione e a quanto ce l'ho fatta appena a tornare. Con queste onde che ci scendevi dritto di punta e poi si alzava di nuovo la barca, ui ui ui, fa un po' con le barche bobule. Ma c'è per pa? Ma c'è per pa oggi? Che non ha risposto, l'ho chiamato. Comunque hai detto, va di acqua, eh? Cosa? Hai detto, ogni marea di va di acqua. Di vento volevo dire. C'era vento, acqua. Io ho pregato, ma davvero, non scherzando. Oh Gianni, non posso immaginare. Gianni. Dimmelo. Guarda, la cosa più brutta in barca non è tanto l'avaria del motore, perché se ti sai fare, vale che quando c'è l'incendio in barca, quello, io ho avuto un principio di incendio, quello è il pericolo in barca. E come mai, Roberto? C'è stato un rientro, siccome siamo di stacca batterie, c'è stato un rientro di corrente, è partito uno strumento e meno male se sono riuscito a spegnerlo. Quello è brutto, quando succede quelle cose lì in barca, la barca, maggior parte dei casi è un retroresina, in un attimo ti prende il fuoco. Sto dicendo, quello sì che deve aver paura, perché se sei in panne, al limite, se ci riesci a ancorarti, se non c'è corrente, ti fai un'acqua da galleggiare, puoi fare tante cose, a meno che non ci sia la burrasca o ti lasci portare dal mare, a meno che non ci sia troppa risacca. Se il problema quando sei troppo sotto costa che ti fa risacca, devi stare attento che ti ribalti. Però la cosa brutta in barca è quando c'è incendio, il fuoco, solo quello lì devi temere, prima di tutto, poi tutto il resto. Sì, ti tuffi se c'è l'incendio, ti tuffi. Sempre già si spegne con l'acqua. Già ti volete tuffandoti quando sei un po' lontano, qualche miglio fuori, con i bambini e tutte le persone che ti tuffi così, già ti voglio vedere già. Ah beh, quello sì, bisogna avere sempre una barca di salvataggio, di quelle, una barchetta piccolina, un gomboncino attaccato, di quelli piccolini piccolini. Avete parlato in due. Ho detto che non è vero che si spegne con l'acqua, potrebbe anche esplodere. Ne ha esploso più di uno di salvatoio, perché quelli che soprattutto sono belli, come si chiama, belli chiusi, se non c'hanno lo sfiato, se sono impianti fatti così col calore, la dilatazione, ti scoppia tutto. Comunque io la barca la temo. La barca? La temo, da quando sono andato con quelli ho paura di andare in barca. Guarda, io un paio di volte ho avuto, non dico paura, però un po' di apprensione. Quel caso lì, che eravamo, c'era gente in barca e lì devi stare attento, quando sono bambini piccoli è quello il problema, ti mettono giù molto di salvataggio, devi essere, ragionare subito, per fortuna siamo riusciti a spegnere, anzi sono riuscito a spegnere. E poi un'altra volta col gommone, la stessa cosa che stavi dicendo tu, trovandoti in mare bello, poi di colpo vedi tutte le barche rientrando, eravamo verso la Corsica noi. Dai che non è così, non è così, alla fine abbiamo fatto 20 miglia col mare in burrasca, mi si spacca il comando del coso, della timoneria, ho dovuto guidare a barra col mare in burrasca, tu vedi cosa, prima di arrivare ci avevo messo più di un'ora e mezza, arrivo all'imboccatura del porto e mi manca il carburante, ci avevo osservatorio di riserva, solo che stavano andando a sbattere sulle rocce, allora mi hanno rimorchiato, devo dire, quello sì che era un po' pericoloso il giorno. Ma anch'io me l'ho vista buttare un bella barca, faceva tipo montagnero, se saliva e scendeva di punta, capito? Ed era sotto, vivente, ma niente, tranquillo. Guarda, il problema non è tanto le montagne russe, perché se tu riesci a impostarla l'onda, il problema è quando ti trovi le onde di traverso e ti arrivano tutta la risacca, cioè un movimento non riesci a guidarla, a governarla, di lì è il rischio, soprattutto c'è le mulatte alte che sono barche alte, e c'è il rischio che ti rovisci, e quello lì è la cosa che temo, molte volte, infatti una volta mi è capitato alla diga foraria, infatti è vietato, svietato, è sconsigliatissimo, soprattutto quando c'è un po' di mare, passare vicino a ridosso della diga foraria, tu devi vedere, vedi l'acqua ribollire e non riesci a camminare. Secondo come ti prendi l'onda e ti rovescia, e a me mi è capitato di rovesciarmi, di rischiare di rovesciarmi, di lì è che ho avuto paura, una delle pochissime volte che proprio posso dire aver visto, non dico la volta in faccia perché arrivati ti fai un bagno, però era brutta brutta la situazione. Come? Dimmi Pina. Hanno dovuto aspettare l'indomani mattina per rientrare che ci fosse la luce, perché non avevano nessun punto di riferimento. Si sono ancorati, hanno buttato l'ancora e non sapevano da che parte andare, meno male avevano l'ancora. Infatti io qualunque cosa esco, anche con un canotto, può essere un canottino come quello che avevo quest'estate, sempre l'ancora appresso, perché se ti trovi un vetto di terra in avaria ti trovano in Corsica da buio. Io non so da dove mi regolo Pina per rientrare, dal campanile della chiesa. Un attimino, gli altri sentono. C'è una radio, una testa, una radio lunga portatile. Come si diceva, allora, siccome le antenne sono divertite, se si gira la barca l'ascolti di meno, magari se si gira attorno del, perlomeno a 180 gradi, l'ascolti di meno. Diversamente anche la radio ti dà una direzione. Non so se hai capito. Sì, sì, ti ho capito. In una certa direzione si ascolta bene. Se si gira la barca invece non ascolti bene. Quindi ti rendi conto che sei in un'altra direzione. C'è Rita che chiama. Avanti Rita. Buonasera a tutti. Io volevo sapere Gianni se sono all'ascolto. Ah, non lo so, ma stasera è entrato, stavo parlando. Prova a fare chiamata. Stefano, chi sei? No, sicuramente non c'è, comunque dai, ti saluto a tutti. Pinangelo, Gianni e Roberto, non so chi sia, mi sentiamo. Ciao Rick, buonanotte, dai, ti sento che si sta sudicchiando. No, influenzata. Influenzata pure tu. No, via, andiamo bene. Va bene, là. Se vuoi stare all'ascolto, te l'ascolto, se no non c'è problema. Kappa. Avanti. Oh, Rita. Sì. ciao Roberto. Ciao Luca, lo volevo dire, no, ci abbiamo parlato stasera con Coso, con tuo marito, con Stefano, si sentiva anche abbastanza bene, poi a un certo punto forse sono spostati e l'abbiamo sentito basso, forse sono rientrati, non so, dice c'era un bel vento comunque. Io ho detto che c'era un po' di tempo classico, via, piedi, non sei. Vabbè, volevo sapere se c'era, così potevo andare. Se per caso lo sentite, ho fatto chiamata, vi adesso un po' la foto e poi vado a qui. Ho pensato di più. E aspetta, facciamo una chiamata, noi magari mi provo a sollevare un pochettino. Attento, Stefano, se copi sacca lì avanti. Prova tu già. E se non senti a te, Roberto. Attenzione Stefano, se ascolti la città di Sassari che ti chiama, gappa. Stefano, che tu? Nada de nada. Beh, ok, dai, ciao. Ciao, lì. Ma il telefono non prende? No, no, non prende. E vabbè. Il mare bisogna conoscerlo bene, non si può partire dall'avventura così. Lui c'ha i soldi, subito si è comprato la barca, appena ha preso la patente nautica, si è preso la barchetta, adesso se ne ha preso una da 12 metri, ma infatti questo di Alghero, e tu cosa ci fai in barca? Se montagnino sta andando in barca. Ah, lui guarda che farò più attenta, perché, perché guarda, imparare la verità, poi c'è un istinto abbastanza, abbastanza meno, abbastanza buono del mare, e tu al mare vedo di lì, ma non c'è una volta, io mi sono trovato, vero, oltre le 5 miglia con punta in campanile, no, fuori al nero, ma allo stile, io sono un comportato, non posso dare niente. Io sono entrato perché le onde di solito verso mezzogiorno portano a terra, basta seguire la corrente che li porta a terra lì ad Alghero o a Porto Torrente o dove sei. Tutte queste cose bisogna sapere, se non è esperto come sa. Comunque io ho puntato verso il campanile. Abbiamo andato in chili e sono andato dritto a Romulo. Ma tu calcola che a 5 miglia da Capocassa il campanile non vedi grosso modo grande quanto una, un motticone di sigaretta, di filtro, no? Forse anche meno. Se ci vedi appunto non la vedi proprio al giro. Figurate un po'. Io ho distinto mio guardato, a parte la radio come ho detto, che come mi si girava la parte, immediatamente mi ha fatto dal segnale. Poi no, ho dato un'occhiata a queste miglia, ma in 448, a dire non si vedeva, ho finito la corrente, no, direttamente ho sbagliato di quasi mezzo miglio, dai, su, meno di 500 metri, roba di, o un chilometro. Perché mi sono trovato anziché verso la bocca del porto, l'entrata del porto mi sono trovato direttamente alla strona, dai. E io sono andato anche dalla parte di Bosa lì. Siamo andati verso Bosa per quale va a prendere Pittoni a tutti i costi. No, quella non è quella mia, la mia zona è. Appunto il campanile, poi 3-4 miglia di Capocassa, poi quella è Giovania che conosco molto molto bene. Non mi tiro andare in posti che non conosco. Infatti no, attenzione, volevo andare alle secche delle Vedove, ma da solo, anche se avevo due motori, non ci sono andato. Trovavo sempre l'altra barca, chiedevo sempre un'altra barca da Puglio. Oh, scusate un attimo. Vai. Vabbè, io vi lascio, dai, ci sono già un pochettino, no, sono un po' stanco, domani devo andare anche presto. Vabbè, vi saluto, buon proseguimento di conversazione. Ciao Pirangelo, Gianni, Natalino, Luca e tutti gli amici che sono all'ascolto, dai, buon ritiro da parte mia. Ciao, ciao Roma, ci sentiamo. Buonanotte. Ciao, dottore, alla prossima. Facciamo girare oggi. Appena è nata lì. Così sarà qui, prima. E addirittura lo sa cosa ho visto? No, beh, quello mi ha fatto un po' schifo perché so che ci sono le alfone, lì via la passeggiata di Alghero lì, con delle canne bolognesi lunghe, e pescavano questi pesci salpe, forse erano un bel mare. Li ho sparati con fucile, anche se sono molto difficili perché stanno quasi a pelo d'acqua, e quando passavano i branchi sparavo in mezzo, anche i due ne prendevo, ma solo che quando le spanci tutto erba dentro. Quelli sono questi, ho già, ad Alghero li stanno cucinare, io di solito non li mangio, però li ho assaggiati, stati da d'accordo, l'ha fatti una volta, l'ha fatti anche mia moglie, e mi ha fatto di cucinare quel tipo di pesce, ho già. E come li fatti? Ma è andata, aglio prezzemolo, poi ci andava una salsetta, e via dicendo, ma è un modo di insomma, che le parole no, la carne, si finisce quel consumo della carne, rimane mangiabile, dai. Però a me invece l'unico pezzo che piace mangiare è il sparago, è della famiglia del sparago e la sbagliata. Gli altri, e non sapete, sapete sta figlia a me. Poi alla rossa, candeloni e altre cose, quelli sono, non ci vanno male. Il teatro a me piace parecchio il sparago. La svariata che cos'è? La taluta, quella in italiano si chiama taluta. No, la svariata è il locatese, il reale del sarago. Ah, cappa, cappa, sarago reale. Quello pizzuto là praticamente. No, negativo, negativo, non è pizzuto, quello è il sarago pizzuto. È un qualcosa, no? Il meglio del sarago. Infatti io li pescavo solo esclusivamente quando c'era mare grosso, mare di Ponente, loro scivo, passava uscire un miglio da Punta di Campanile, un miglio di quel mezzo, e riuscivo a ancorare con i gamberi, tiravo su 3, 4, 5 svariate da 20, 30, qualcosa in più anche. E quelli sono favolosi, a me piace quel tipo di pesce più del sarago, è della stessa famiglia. Ecco, ma io voglio capire qualcosa. Allora, è quello che c'ha praticamente la livrea come l'orata, dorata sul muso. Però se è quel tipo del sarago, solo che ha qualche macchia in più. Ha fine da fare? Ah, un qualcosa di favoloso. E non ci sta più scendo in barca, capire. No, guarda, mi sono stancato, sono già... Adesso mi pare che sono un vecchio attuale, una qualcosa del genere. E di fatto ho detto di no, ho preso la barca, l'ho regalata a mio figlio. La messa non so dove, in quale si avrà mangiata, non lo so al posto. E non ne voglio sapere altri. E non è una cosa più che altro, sia di dire che mi vengo al bambino di andare a prenderla. E lui la usa, sì. Di olio e poi lo zucchero e guarda la fuoco letto, ho fatto uscire bene, poi ho preso la carta spagnola, perché l'ho tolto la carta a forno, e l'ho buttato lì, l'ho fatto seccare, se mi è rimasto un po' di carto attaccato al tegano, un tegano nuovo, no? Che no, non vuole che usi, ma è un coso, un, perché mi veniva bene lì, un picciattino, dai. Non ne volessi, beh, il tuo biglietto l'ho già preso la mancata, avessi ne uscito, Poi, non per la volta, non so tanto con la forchetta, ci pigia dalla forchetta. Avanti per... Mi sente giù? Come ascoltate? Avvisi. Ascolti, non la vedi. Ah, vabbè, un viaggio a P7, dai. 7, ma sono 7 altro. Ciao, mi arriva basso, però lo sento. Io ho sento 5 mi qua. No, il gatto no. No, non me ne sono accorto più. Coppo. Eccomi. Ecco. A voi. Voi. Gianni. Gianni. Il caldo. Il caldo. Rientra dopo. Fate un attimo, Pierpa, un attimino. Ehi, appena, ok, lasciamo qua, noi, dai. C'è niente, lasciamo qua. Dimmi, Pierpa. E qui sto facendo la voce grossa. E io mi difetto perché già ero... Yeah. stato di Napoli di Gerpa, noi stavamo giocando. Poi, a chi era rivolta di Napoli di Gerpa. Non c'è perché prima c'è poi c'è sta vicenda sui fitto. No, sì. che fa. Ma hanno fatto nomi? No, senza nome, ma era riferito. Lei era in qualche nome, ma si sentiva che era riferito a un po' di persone. Cui uno sono io, dai. Non solo, non solo, un po', un po'. Non ho capito, ma faccio un tipo. Via Bluetooth. Ha fatto il telefono, però no, questo, questo qua. Molto lunga. No, purtroppo sono riuscito a farne una parte solo, e c'era la parte più pesante. Non ci sono riuscito perché c'era il telefono scarico. E sembrava fatto apposta. Vabbè, se era molto lunga lunga già. E diciamo la lunga già ce l'ha fatta, eh. Io non ti chiedo altro, tanto non rispondi, ti ha detto che era qua. Vedo uno scherzo, tanto già ci troviamo dentro lì qua. Già non c'è problema. Ma, non so. Pronto? Mi era carino. Sì, già sono qui, poco fa pure in macchina. E mi stavo ascoltando, solo che non me ne faceva entrare. Siamo tirato più di uno e più di due. Manco io. Beh, se prendi il ping pong a nastro, fai tu. Ma vedi lui dopo. Sì, c'hai ragione, infatti abbiamo un po' passato a farlo un po' troppo veloce, dai. Lasciamo un po' di bianco, non passaggio dell'acqua, che così almeno. Se uno deve entrare, può entrare. Dai, per dire il primo. Non andare con i carni, grazie a voi, a te sì. Cappagallo. Io, beh, con i carni e ascoltare. Oh, già lo accendo dall'altra parte, capito? Sì, da sonno, vai. Qua, da sonno, sonno non è, però... Vediamo che riesco a addormentarmi anche io, guarda, sono a piedi. In questi giorni non ho dormito un tubo alla notte. Stasera mi sono crollato e mi sono cominciato a risetti, mi pare. Ma se non dormi un tubo, dormi un palo, no? Ma anche Luca c'ha ragione. Lascia lo fare che gioco a Luca Bulimuma. Luca Bulimuma a te. Vai. Vai a mangiarti un brodino di mammo. Ciao, siamo muriati prima, dai, fa vita, non mi offendo, fa vita. Che cosa ti potevi dire, se sta giunta? Ma è indeciso ieri. Dico io, vaffanculo, Natali. Adesso perché mi vuoi far diventare scurrile? Scurrile, no. Scurrile, ile. Vabbè, fa questa puccia su cose in capo, affanna, pure, sto facendo via il dromo. Grazie. Vieni qua. Non parli con muro. Non ti corri tutti i colori che sono maleducato, qui e là. Far diventare civile in frequenza non fa. Ma sai che posso dire, fa? Beh, finita a 20. Da, se no vi faccio andare tutti a letto, da. Ciao, vai, tu hai mangiato un brutto mamma. Il falcone è solo più rado. Parla con muro. Mangiati il muro. Finita a 20 tutti. Hai finito? Che se vuoi entrare qualcuno te lo farà. Finito. Avvi su. Ah. qua, andiamo. Non si è preso detto barra agricola. Io vi ho inteso, non sarà fuso baracchino. Sta segnando. Visto che ha finito, che aveva il coperto già. E mi ha detto che c'era riposo. Che aveva seminato e coperto pure. Adesso bisognava che ci pensasse il tempo a farvi crescere quello che ha piantato. Vedo che sta piovendo. Barriata ha fatto. Abbastanza piovendo. Portatore stava proprio qua. Un'acqua allucinante. Dai tubi scendeva a scrosci l'acqua. Tutto allagato, un casino. Non capisce sempre queste cose porcaccione. C'è un rumore strano, non lo so, ma sto bene. Usci qua. Però c'è un lampione, che sono fastidioso. C'è un lampione sotto casa di mamma che faceva qualche avvicinato. Rugaria, via l'aria. Guarda, passa a tutti. Guarda adesso se va meglio lui. Bene, ultimo. Raga, ma un filo bastardo era, raga. Bastardo. Uno bianco. Non era... Beh, non era massa lui. Che microfono c'è? Il CTE? No, è il suo originale. E si è attaccato il filo. Io non so che è nero. C'è il nero, poi c'è il giallo. C'è la calza e c'è il rosso, c'è quello originale. È impossibile che ci sia il bianco. A Molocchia no, hanno cambiato il capo. Non deve essere capo originale suo, perché in alto c'è il rosso, la calza, poi sotto, sulla destra scende, c'è il bianco e al fianco c'è il nero, e sotto c'è il nero. L'originale è giallo, nero, rosso, calza. Lui hanno cambiato il capo. Un attimo di pausa per me. Cava già. Ehi, aia Lugarie, ti stavo facendo disperare. Porca miseria, tutta la sera ci riuscivo a farlo andare. Ma tagliato l'hai accorciato, in modo che i figli non escono fuori dallo spinotto. Ehi, aia, tutto a posto. Già va bene. Ehi, Kive, buonasera. Ehi, aia, bubu. Oh Michael, ce l'è, non mi sento. Michael, ecco. Aspetta, ma l'ha detto lui, perché cazzo è tappata questa cosa? Non so dove cavolo appoggiarlo. Aspetta. Così, lui? O ce l'è? Non è il solito ecco che usi. Aspetta, ho messo la posizione giusta. Ma lui tappata. Elpa, tu lo sai carabinieri come ascoltano la radio? Non lo ricordo. No, non lo ricordo. Non lo ricordo. Maletta. Dai. C'ho il telefono. C'hanno il telefono. Mi capisci la parola di orecchie. Cominciamo. Luca! Via. Già ce l'è. Ma ce n'è adesso? Sì, ma che non è l'orecchio o lo shampoo per qua? Per sentire le risposte di Garnier. Sentire le risposte? Shampoo, risposte di Garnier, non l'ha mai sentito. Dai, non ti esce, shampoo, risposte di Garnier. Allora, diciamo, comunque, diciamo, per sentire le risposte di Garnier. Per telefono? Come la... quella... questo appuntato doveva avvitturare l'ufficio del maresciallo e praticamente adesso non mi ricordo che cavolo l'ho sentita questa in televisione e io sono andato via perché aveva preso il tavolino la scrivania del maresciallo e ne ha messo un foglio di giornale, non so com'era, ma ricordate? Rumore brutto. Gianni, sei dove addormentato? Sei venuto la pacchia? Tutto sta lì. Perché adesso è tutto così, si mette come uno da 10, Diana, blu, avanti ieri, e uno l'ho comprato oggi, e blu. Un po' fumo, un po' non fumo, dipende Luca, sei furgone, come fai a non fumare? Vabbè, comunque, adesso la regolata, dai. Non dico di non fumarne nulla, ma intanto la regolata, a me. Sì, una ogni tanto me la fumo, Luca. Poi, cazzo, non lo trovo neanche l'accendino oggi, a fanculo, non stavo più fumando. Sì, si vuole fumare, la cappia, non troppi da accendere. Allora, io ho fumato, aspetta, fammi pensare. Allora, sono 12, 20 sigarette con questa, ma 20 sigarette. Grazie, allora. Non ho anche finito ancora, quello da 10, pensa tu, mi piace ancora, vabbè, adesso rimane 3. Non mi fai un raio di lavoro di tutto. L'ho comprato esattamente stamattina alle... che sono state? Boh, verso le 10. Ma che dici? A volte parlavamo un raio. Non ce la scherzava la sigaretta, no, ma tu. Diciamo che io, dipende, sono giuro che ne fumo 15, 16, un pacchetto. Non di più, eh. Perché so già che ne ho fumato tante, allora non ne fumo altre. Ma no che sono in giostra, sì. Ma quando sono in fase di abbiocco non ne fumo. Tipo ieri notte, vedi? Stavo ascoltando, Oh, non ne ho toccato. Ma non mi viene neanche la voglia di prendere il pacchetto, quindi. Dito, e mi sono fermato. Poi mi sono addormentato e niente. Io la prima che mi fumo è le 8 e mezza, faccio colazione e subito la sigaretta, c'è un guai, mamma mia. Perché io la prima che mi fumo è per le 7 e mezza. Senza colazione? No, dopo la colazione. Ah, io senza colazione non fumo, no, ma neanche, non ci riesco. No. Ma io ora guardavo un incendio, io ho detto che io la farò dopo la colazione. No, beh, se c'è, io senza fare colazione non ci riesco, ma neanche se mi pagano. Ma tu, dimmi, guarda così si vai a leggere nella TV, dai una sussurrata quando va un po' culera, vai, non si vede un accidente. No. Ma quale me la vedi in Kiwi? Se avevo dato la cabiscina avrei fatto un casino. Brava. Dio comanda, penso che lo sai, no, cosa devi fare, sì. Già lo so, non mi è piaciuto più dal primo momento quello. Vabbè, comunque sia, se vuoi fare un lavoro come Dio comanda, devi riempire le scatole di silicone. Già lo so, l'ho pensato un'altra volta, ma il tempo non aiuta neanche. O forse semplicemente non c'è stato il tempo, ma comunque come si sia, quindi la fraccaro, non sbagli, eh. Infatti, vedo quella che non sa tutte quelle maschiettine così come quella che c'è qua. Ma cosa come ti va a entrare là dentro? Allagata, si allaga dentro, una cosa incredibile. Fa schifo. Lo so, per farlo so. Non so, la fraccaro la paghi 10-20 euro in più, ma la fa una signora antenna. Ma io ho il miscelatore proprio del digitale terrestre. Con sono 3 attacchi, 6 attacchi mi sembra che sono, o 4, boh. Praticamente posso fare 2 calate. E io la vendi in antenna? La fa caro, la vende la GBC. E la compro la lui. No, la cambia, mi sono stufato, voglio fare un momento. Silicone, cosa silicone, no. Va bene, come si deve, non se ne parla più, non mi interessava un cavolo. Dico una cosa e cosa non posso, ma preferisco prenderne una a qualsiasi tocca. Tranquillo, qua siamo tutto bene. No, sentiamo quest'anno a fare un po' di carica. Via. Comunque noi non porto il furgone. Poi con il microfono ce l'ha meglio. Facciamo nel furgone e poi vediamo se cambia. Scala, tanto sono a distanza del genere, lì. Aspetta, bene. Così fa rientro. E così, bene, va lo carriere. È troppo alto il far l'ascolta. Io non so dove si regola, Cioè praticamente il come si chiama? L'amplificazione del microfono, che ti amplifica, no? C'è un trimmer. Un trimmer sopra la scheda dell'eco, qui, quello lì. E c'è cos'è? Che qua è un conto, il furgone non si intende così forte. Ma il furgone non ti fa neanche rientro. Il furgone è tappato. E questo. Sono a distanza del genere. Dava, dava. Che parrocci. Vai a mangiare qua. Ehi, ehi, ehi. Dai, sentiamo più tardi. Come ora, allora, delle cuffie. Sta guardando, ma non ho cuffie. Vedi che rientro non se ne fa più. Brava. Però il furgone con le cuffie non sono solo parate. Questo è quello che c'è il furgone, capito? L'ho portato a quella, aggiustare quel capo. Guarda come si dice, al microfono. Lo so, fa un po' di... Magari il furgone non se ne fa così. Non so, non ho provato questo microfono di furgone. Questo l'ho adattato ieri al mio 48, però non va bene. Adesso ho provato a attaccarlo a questo. È così. Cavolo, sentiamo dopo. Thank you.